12:20, martedì 8 dicembre 2009. Sono più, sono polvere, sono... Queste sono le frequenze, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e quella che va ad iniziare adesso, come di consueto, è Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Una puntata, quella di oggi, un po' anomala, ma in fondo neanche troppo, visto che andremo a fare una, appunto, una puntata light con in cui parleremo e daremo tutti gli aggiornamenti su quanto sta avvenendo in questi giorni in Grecia, non so capire, ad Atene, ma non soltanto. Tra le mani, la speranza di non morire. Una puntata in realtà anomala per modo di dire, visto che proprio da queste frequenze, da questa fascia oraria in particolare, abbiamo sempre cercato di dare attenzione a quanto avviene in questi contesti internazionali, soprattutto per quanto riguarda quella che è la deriva anche autoritaria e securitaria europea. E risulta difficile anche immaginarsi una deriva securitaria peggiore di quella, appunto, che un anno fa in Grecia uccideva Alexis. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. Parlo come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi, il vento mio. Come immaginerete, se già con i collegamenti da Roma di solito siamo anche piuttosto laboriosi, per quanto riguarda la Grecia un pochettino di più di tempo dovrete aspettarlo, quindi nel frattempo ancora un po' di musica. Questi sono i Gente Strana Posse, Apri gli occhi, mentre cerchiamo di attivare appunto questi collegamenti con Atene. Ancora tanta, spinge come il vento. dimmi come vivi e quanto ti costa, quanto tempo hai perso, quanto te ne resta. Dimmi se il tuo cuore è collegato alla tua testa. Verità nascoste da risposte presupposte, emozioni predisposte in un cammino senza soste. Apri bene gli occhi, crea nuovi sbocchi. Ora, oggi come allora, cerco una risposta che non porti al compromesso. Risposta a più domande tra cui non trovo più nesso. Lotta che va avanti sempre solo con te stesso, in cerca di un accordo che non trovi così spesso. Ma adesso il mondo capo oggi chi non segue il suo passo. Solo un passo dal collasso, in cerca di un avvio, di un ciottolo, di un masso, per non dover cadere sempre solo nell'abisso. Cerco una risposta che risponda anche domani a tutte le risposte che si sporcano le mani. A chi ancora non è stato e non sarà stato mai, a chi ancora corre solo, solo un passo da sei guai. Lascia che la lotta vada avanti e ti risponda, lascia che sia semplice persino la domanda. Apri gli occhi, senti il caos, attaccati a quest'onda, non stare ad aspettare che qualcuno ti risponda. Fatti una domanda, datti una risposta, dimmi come vivi e quanto ti costa, quanto tempo hai perso, quanto te ne resta. Dimmi se il tuo cuore è collegato alla tua testa. Verità nascoste da risposte presupposte, emozioni predisposte in un cammino senza soste. Apri bene gli occhi, creano visbo. E finalmente riusciamo ad attivare il collegamento con Atene, un collegamento che, insomma, di una voce conosciuta che comunque in questi giorni ci ha già aggiornato su quanto sta accadendo in quel della Grecia. Infatti non solo Atene, che ovviamente vive la mobilitazione più ampia dovuta anche alla prossimità della storia di Alexis, con il vissuto di tutti e tutte i ragazzi e le ragazze che stanno in piazza in queste ore e negli ultimi giorni, ma ovviamente una rivolta generalizzata quella che avviene in Grecia. Abbiamo sui siti internazionali possiamo vedere mobilitazioni a Larisa, Resimno, Creta, Kavala, Ioannina, insomma anche nel più piccolo centro della Grecia la gioventù è in aperta rivolta verso un sistema economico fallimentare, verso un sistema sociale che sta dimostrando tutta la sua incapacità a gestire la situazione di crisi. Ti lasciamo la parola per darci gli aggiornamenti magari delle ultime ore e poi un po' di riflessioni insieme. Ci sei? Sì, naturalmente qua la rivolta è concentrata su, a partire dalle ragioni che tu hai detto, dal senso che tu hai detto, è concentrata su quella che era l'anno scorso sotto un governo di centrodestra e quest'anno sotto un governo di centrosinistra la gestione o l'ipotesi di gestione della crisi e di questa situazione sociale in Grecia, che naturalmente non è solamente una difetta greca, è appunto la costituzione di un in maniera apparentemente soft di un permanente stato di polizia che designa i giovani precari, gli studenti che si mobilitano come classi pericolose, che cerca di definire tutto ciò che si muove in dissenso come estremismo e pericolo per la società civile stessa. Stamattina qui ad Atene è in corso davanti al carcere di Korydallos una mobilitazione degli studenti medi. Sono sempre i coetanei di Alexis da ieri in prima fila nel dare continuità alla protesta che esplosa tra sabato e domenica, tra la vigilia e la scadenza piena dell'anniversario dell'assassinio ad opera della polizia antisommossa di Alexis Grigoropoulos il 6 dicembre del 2008. In questo momento sono in corso scontri perché la manifestazione di studenti medici è stata caricata davanti al carcere. Il movimento non si sente accerchiato anche perché le costruzioni di immaginario pubblico con cui si giustifica l'emergenza e la vera e propria messa in stato d'assedio soprattutto nella capitale greca, ma di tutti i centri cittadini dove sono in corso le mobilitazioni giovanili, viene spuntata giorno per giorno. La montatura sul rettore di Atene, sul rettore del Politecnico, che in cui è stata denunciata addirittura una commozione cerebrale conseguente a colpi dei manifestanti che avevano occupato il rettorato, il Panepistemio, alla partenza della manifestazione di domenica ai Propileia, è stata infranta addirittura dalle foto e dai video dell'uscita del rettore dopo i primi momenti dell'occupazione, in piedi, sconvolto, accompagnato da due collaboratori, ma col telefonino in mano e senza alcun segno di pite o urti al capo. Gli arresti di massa con cui è stata costellata la tre giorni che ci precede sono stati in qualche modo immediatamente messi in discussione dalla stessa autorità giudiziaria, non solo i cinque compagni italiani che pure rischiano gravi pene se fossero applicati i reati che gli vengono contestati, fino a 2 anni e mezzo di carcere, sono stati però liberati in attesa dell'udienza il 16, ma questa mattina i giudici ad Atene hanno liberato anche i 22 presi nel raid poliziesco al centro occupato a Resalto, a Cherazzini, sabato, che in qualche modo è stata proprio la miccia, diciamo, della provocatoria accesa fin dalla vigilia appunto dalle autorità rispetto a un anniversario la cui qualità era perfettamente attesa. I 22 compagni sono stati messi in libertà malgrado le accuse della polizia convalidate dai pubblici ministeri secondo la legge antiterrorismo, perché la polizia ha rivendicato e ha fatto anche una conferenza stampa che ci ricorda qualcosa il ritrovamento di Molotov all'interno del centro Resalto. Il problema è che ieri sera lo stesso municipio di Cherazzini e il presidente del municipio di Cherazzini hanno presentato presso l'autorità giudiziaria una dichiarazione scritta in cui certificano la legittimazione pubblica del centro di Resalto e denunciano come abusivo l'intervento della polizia, dubitando anche dei verbali di perquisizione. Parlando di un atteggiamento vessatorio già precedente malgrado il riconoscimento da parte del municipio. Quindi i 22 sono fuori, si sta aspettando i risultati della udienza per i 42 presi nella successiva occupazione di protesta nel municipio di Nichia, proprio per vicino municipio di Nichia, presso Cherazzini, sempre di sabato. Insomma, i numeri che avevano totalizzato 75 arresti preventivi nella giornata di vigilia di sabato. Molti dei successivi 122 arrestati ad Atene nella domenica della repressione della grandissima manifestazione dell'anniversario di Alexis sono stati messi a piede libero. La vera situazione, diciamo, di allarme è in qualche modo la prigionia in cui si è cacciato politicamente il governo e soprattutto il ministro degli interni, il quale aveva fatto di un annuncio di tolleranza zero verso le cosiddette violenze di piazza un fiore all'occhiello, al punto che ieri l'allarme più grave è stato portato a Salonicco e ad Atene dalle violazioni ripetute del diritto d'asilo, che è legge costituzionale, il diritto d'asilo nelle università e nelle scuole. A Salonicco per 3 giorni consecutivi sono state violate varie facoltà occupate dall'intervento della polizia, con 8 arresti presso la facoltà di filosofia all'alba di domenica, anche lì una miccia accesa nell'anniversario, per disposizione del rettore, che è considerato un fascista dal movimento. Il panepista Emilio di Salonicco è stato a sua volta occupato ieri per protesta proprio contro questa violazione del diritto d'asilo e ci sono stati durissimi scontri per tutta la notte, anche lì con il blocco di tutto il centro di Salonicco, che è stato tolto dai manifestanti solo quando tutti gli arrestati della giornata di ieri sono stati messi in libertà. Quindi, diciamo, in questo rapporto di forza la mobilitazione continua ad essere agito e a verificarsi. In Atene questa montatura costruita sul rettore, sul presunto ferimento del rettore durante la presa del panepistemio da parte dei manifestanti il 6, ha portato a una conseguenza molto grave, ancora più grave dal punto di vista dell'immaginario e della memoria storica di quella di Salonicco, perché la polizia ieri, dopo aver sciolto con cariche ininterrotte e generalizzate al sintagma la manifestazione degli studenti medi, soprattutto gli studenti medi, insomma, con gli universitari, gli insegnanti, i sindacati di base che hanno proclamato 3 ore di sciopero generale, l'ha inseguita, era rimasto residuo compatto della manifestazione fino al Politecnico, l'ha spezzata sul viale del Patision e in questa circostanza è entrata nel cortile del Politecnico di Atene, che insomma chi sa un po' di Grecia ricorda essere un tempio della resistenza al fascismo, persino della resistenza democratica, della costituzione democratica della Grecia contemporanea, perché il 17 novembre del 73 fu proprio il Politecnico a martirizzarsi nella rivolta degli studenti contro la dittatura dei colonnelli con l'intervento dei carri armati e i morti in quel cortile del Politecnico dove ieri è irrotta la polizia antisommossa. Il movimento ha reagito molto duramente, ha riconquistato poco dopo con una sortita di massa il respiro intorno al Politecnico, ha bruciato letteralmente la cartolina differente che il ministro degli interni voleva offrire al mondo del dicembre del 2009 rispetto al dicembre del 2008, le immagini di ieri sera della Patision, dei dintorni del Politecnico sono esattamente le stesse dei punti più alti della rivolta del dicembre 2008, un muro di fuoco ha tenuto lontano le migliaia di poliziotti scagliati contro la manifestazione rifugiatasi nel Politecnico, la manifestazione è riuscita a portarsi fuori dal Politecnico tutta e a sciogliersi alla piazza Omonia passando del viale Alexandras senza dover subire ulteriori attacchi alla polizia tenuta a distanza. In questa circostanza però, visti i fatti di Salonicco, vista le montature, visto quello che era accaduto pochi quarti d'ora prima, insomma, con l'irruzione nel cortile del Politecnico, i compagni occupanti del Politecnico hanno deciso di lasciare proprio con questa sortita di massa l'occupazione. Oggi sono in corso assemblee lì e in tutti i centri occupati, anche nelle scuole, a parte diciamo gli studenti mobilitati davanti al carcere e in questo momento impegnati a fronteggiare le cariche della polizia. Sono convocate due grandi manifestazioni per la liberazione di tutti gli arrestati ancora nelle mani delle autorità, sia ad Atene alle 19 sia a Salonicco alle 18. Il centro di Atene è tuttora in apparente stato d'assedio, malgrado l'apertura al traffico dopo due giorni dei principali viali, anche di quelli che costeggiano i Propileia e Panepistemio, ma intorno al Panepistemio io ho contato solo su un angolo, sul retro del Panepistemio pochi minuti fa 25 motociclette, quindi 25 squadre da due dei Delta, famigerati poliziotti motociclisti che manganellano in corsa e investono, come si è visto nei video del 6, i manifestanti da disperdere e soprattutto li arrestano afferrandoli al volo. Un qualcosa che ricorda le immagini iraniane, ma qui siamo in piena Europa. Scusami, ti interrompo un secondino per chiarire un attimo, siamo convinti che potresti ovviamente andare avanti per ore. La questione, vorremmo cercare però un attimo anche di centrare, ti dicevamo prima fuori onda, anche di centrare su quello che è il contesto politico, nel senso l'anno scorso una rivolta che l'Italia aveva conosciuto attraverso le immagini seguenti l'omicidio di Alexis, l'Italia stessa si era e Roma stessa si erano mobilitate in solidarietà con gli studenti e le studentesse greche, ma si trattava di un movimento molto determinato che metteva in discussione lo stesso ordinamento politico ed economico dello Stato greco. Tu ricordavi, è il centro dell'Europa, è un centro dell'Europa però molto molto prossimo al nostro paese. Un governo di destra che è stato abbattuto dalla piazza fondamentalmente, come non accadeva da decenni appunto nel cuore della Unione Europea, e un governo attuale di sinistra del PASOK che si è in qualche maniera proprio consolidato su quella piazza e legittimando quella piazza. Quest'anno quello che ci dice era comunque un clima cileno di vera e propria chiusura, il silenzio che si sentiva dalle corrispondenze intorno a te era proprio quello di una città completamente il tentativo di desertificare una città. Vediamo invece quelle che sono vere e proprie manifestazione di dignità a volto scoperto, quindi qualcosa di molto più ampio poi di una diciamo di una radicalità anche giovanile. Sicuramente la composizione è giovane e questa è la cosa forse più bella di queste giornate, però anche una effettivamente anche guarda, una sì, no, te lo confermo perché in questo momento sto raggiungendo una manifestazione che finalmente è partita da Omonia di insegnanti e residenti di Atene in solidarietà con gli studenti che sta raggiungendo Piazza Sintagma, ma probabilmente sarà caricata tra breve anche questa. Le cose stanno un po' diversamente rispetto alla dinamica politica sulla rivolta del dicembre 2008. In realtà il governo di centrodestra tenne sulla depressione. Quello che non funzionò per il governo di centrodestra fu esattamente l'applicazione della repressione, e il PASOK ha vinto le elezioni recenti dopo che il governo era andato in crisi sulla crisi economica e sulla paventando il timore che appunto il centrodestra non sapesse dare altre risposte che quelle repressive, e in questo modo fomentando una crisi sociale nel paese. Il governo centrodestra diciamo era stato colpito subito dopo la rivolta del dicembre 2008 dal declassamento dei titoli di Stato da parte dei rating internazionali a una A- nel gennaio del 2009. Il governo del PASOK appunto si è insediato dopo la crisi di Karamanlis promettendo qualcosa di diverso dalla sola scelta repressiva, esattamente intercettando come consenso la reazione diffusa alla scelta repressiva del potere, e facendo alcune promesse, facendo promesse di aumenti salariali, facendo soprattutto la promessa di un'integrazione di reddito per i senza salario o per i licenziati o per i precari. Ora di tutto questo non c'è più traccia a pochi mesi dall'insediamento del governo centro-sinistra, e la malgrado appunto la presunzione di questo governo di riuscire ad isolare meglio, che è una presunzione tipica delle socialdemocrazie, le proteste radicali, la frattura sociale, chi prende eventualmente la testa della frattura sociale, e adesso questo governo opera la stessa scelta di quello precedente, in qualche modo appunto quello che dicevo prima sulla prigione in cui si è cacciato lo stesso ministro degli interni, che avendo promesso tolleranza zero nella presunzione che le proteste sarebbero state più ridotte, ora non può far altro che lasciare mano libera alla polizia, che diciamo, è a questo stato di polizia che ha un'apparenza persino più pesante di quella dell'anno scorso. Cose come quelle che si sono viste in queste regioni persino l'anno scorso non si erano viste, probabilmente anche diciamo, perché il potere era intimidito dal fatto di essere di fronte a una rivolta causata da un omicidio da parte dei suoi uomini. L'omicidio si è sfiorato spesso fra le manifestazioni del 6 e del 7 con ottuagenari investiti dalle motociclette dei Delta, bastonature fittissime, uno studente medio grave nelle cariche di ieri. Qui non si ferma nulla, in questo momento potete sentire la manifestazione non autorizzata, in coda ci sono i migranti, che è partita da Omonia, che ha interrotto il traffico del centro di Atene, si sta portando sotto il Parlamento. Lo stato d'assedio non funziona rispetto al tentativo di rinnovamento della ricetta introdotto dal governo di centrosinistra, ossia la spiegazione che c'è una nuova speranza politica, che queste proteste sono più immotivate dell'anno scorso, che sono isolate, che sono pochi anarchici a mobilitarsi. Tutto questo è stato smentito nei numeri di questi giorni, ma è smentito nella testa della gente che cerca di interporsi fra i poliziotti e i manifestanti durante le cariche, che continua a dare vita a quelle scene che saranno viste già l'anno scorso di solidarietà, di rifiuto alla violenza del potere. È un rifiuto ovviamente che poggia su queste basi di gravissime crisi, su indicatori di crisi che ieri hanno rappresentato la nemesi di questa alternanza fra centrodestra e centrosinistra. Ecco, ciao, stando accanto allo spezzone dei migranti che sta andando sotto il Parlamento, e hanno le bandiere anarchiche pure loro. Senti un po', scusa se ti interrompo. No, adesso dico, appunto, completando quello che ti stavo dicendo prima, la nemesi è stata questa: ieri, al termine di questi primi tre giorni di anniversario e riproduzione della rivolta nel dicembre 2008, la Standard & Poor's ha annunciato il posizionamento dei titoli di Stato greci in credit watching, ossia in stato, diciamo, di sorveglianza, che fissa un probabile declassamento ulteriore. Il declassamento ulteriore significa portare fuori dalla A i titoli di Stato greci, cioè significa la stessa cosa che è accaduta all'Argentina nel 2001. Questo spettro della bancarotta formale dello Stato greco e dell'economia di questo paese, di un paese del vecchio nucleo dell'Unione Europea, si aggira da un mese ed è presentissimo nelle teste della gente. Lo sanno tutti che la situazione reale è effettivamente questa, tutti capiscono che le autorità economiche europee stanno cercando di evitare la formalizzazione in qualsiasi maniera, tutti sanno che il mercato lo farà prima o poi, e tutti in Europa a loro volta, a livello nelle stanze del potere, sanno che questo che accadrà all'economia greca, accompagnato dalla diffusione di una rivolta così estesa e così continuata a distanza di un anno, è un pericolo per il potere in tutta Europa, e probabilmente, diciamo così, nei centri della globalizzazione quello che si sta curando è di proteggere, qualsiasi sia il colore, come era stato l'anno scorso, del governo, le autorità locali nella repressione del movimento, e anche di limitare la diffusione delle notizie e dell'informazione su quanto sta accadendo qui. Senti, io ti ringrazio, penso che questa corrispondenza sia stata anche molto esauriente, molto esaustiva. Noi, se tu hai ancora un attimo di tempo, ti chiederemmo, se la sai, un'ultima questione, magari un po' marginale rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che però c'entra anche più nello specifico con quella che è questa trasmissione di solito, che è la manifestazione che si dovrebbe essere svolta, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, da parte del partito neonazista greco ad Atene, Alba d'Oro, in ricordo dei morti del dicembre 1944, se non sbaglio, appunto, collaborazionisti dell'asse. Sappiamo che di solito comunque gli antifascisti greci, nello specifico nella città di Atene, sono anche molto disposti e generosi nell'opporsi alle manifestazioni dei nazisti, che tra l'altro hanno anche stretti legami con i fascisti nostrani, nello specifico quelli di Casa Pound. Sì. E anche, diciamo, aggiungiamo la questione del fatto che già dall'anno scorso la partecipazione di Alba Dorata alle manifestazioni dalla parte delle forze dell'ordine è stata più volte denunciata dai... Guarda, quello che è successo ieri è in parte simile a cose che conosciamo anche a Roma. In una situazione di mobilitazione generale gli è stato impedito dalla stessa autorità di fare una manifestazione di piazza. Hanno svolto, almeno così rivendicano loro e così risulta ai compagni, un omaggio ai loro caduti, ai loro antenati nazisti e collaborazionisti, dopodiché si sono prestati all'opera che gli è consueta. Ci sono molte decine di foto e un paio di video sulla giornata di ieri ad Atene in cui i nazisti di Alba d'Oro compaiono in diversi punti, per esempio davanti al Panepistemio dopo lo scioglimento a colpi di cariche della manifestazione di studenti medi, coinvolti nei pestaggi insieme ai poliziotti, in cordone insieme ai poliziotti, accanto ai poliziotti e protetti vicino alle loro sedi. Questa è la situazione, ed è appunto significativo che un governo di centrosinistra rimetta in primo piano e ridia pienezza al potere della polizia e non possa far altro che riprodurre lo stato di polizia con una polizia che in Grecia, come probabilmente in Italia, detiene una tradizione fascista, rivendicata anche con atti come questi, anche con pratiche come queste, che sono quotidiane. La collaborazione con Albadoro, che peraltro è considerata responsabile di diversi omicidi di migranti solo nella città di Atene, è continua e pubblica da parte dei commissariati. E questo è un altro dato che dovrebbe far pensare, è un dato che non è così dissimile da cose che conosciamo dalle nostre parti. Tra l'altro, uno dei dati del fatto proprio del fatto di cronaca dell'omicidio di Alexis, della questione legata all'omicidio di Alexis, uno dei dati che faceva anche ovviamente ribollire ancora più il sangue è che vicino ad Alba Dorata, se non sbaglio, è lo stesso poliziotto accusato dell'omicidio e tanto la sua famiglia, in qualche maniera una piccola dinastia di nazisti vicini tanto alle forze dell'ordine. In quel caso ancora più significativo, perché la dinastia dell'accusato numero uno, l'accusato A come designato nel processo, dell'omicidio di Alexis è una dinastia molto potente. Questo poliziotto ha fatto una carriera strana, è stato per un decennio dentro gli uffici della polizia politica e dei servizi interni, si è trasferito nella polizia antisommossa solo recentemente, cioè in quest'ultimo triennio in cui c'è stata una decisione politica durante il governo di centrodestra di mettere in stato d'assedio i centri ribelli di Atene a partire dal quartiere di Exarchia, di aumentare la pressione quotidiana usando esattamente la visibilità della polizia antisommossa. Questo poliziotto è il rampollo di una delle famiglie più ricche dell'Attica ed è una famiglia che ha avuto una sua storia già durante l'epoca del fascismo e durante l'epoca della dittatura dei colonnelli. Quindi ci sono alcuni elementi anche così degli sprazzi di verità storica che in questa vicenda tornano e che dicono molto dell'effettivo conflitto che è nato qua. Va bene, io penso che con questo ovviamente non è una chiusura, sappiamo che insomma ancora c'è ben da raccontare, soprattutto per le prossime ore, i prossimi giorni. Per cui ovviamente ti chiediamo una disponibilità ancora successiva per poter proseguire. Va bene. No, sentivo una voce concitata. No, in questo momento ci sono c'è appunto i migranti che si sono portati presso la sede del Ministero degli Esteri subito dietro, sul lato, immediatamente retrostante al Parlamento o sopra Sintagma, e naturalmente c'è uno schieramento di polizia mostruoso che presidia sia il Parlamento sia i ministeri, e un'attenzione molto alta. Giustamente a ciascuno. Ma la sua controparte. Agli studenti il rettorato, ai migranti il ministero degli esteri. Le controparti sono state anche più concentrate, degli scontri di domenica sono stati quando a Sintagma la manifestazione ha bersagliato la polizia intorno al Ministero dell'Economia, appunto per dire la verità di quanto tu notavi all'inizio sul senso di questa rivolta, sulle movenze e sulle motivazioni. Il Ministero dell'Economia è stato, l'epicentro dello scatenamento del casino domenica. Allo, allo? Pronto, pronto? Interruzione a questo punto possiamo dire praticamente tempestivissima, nel senso che almeno non è avvenuta prima, precedentemente durante il collegamento, che è stato ovviamente esaustivo. Potete trovare sul sito della radio questa, penso da qui a breve, sul sito della radio e sul blog di Maldestra, questa